Eccoci qua, 21.09, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, anche per oggi prove tecniche di trasmissione. Secondo appuntamento di questa nuova stagione, un appuntamento che andrà avanti sino alle 22.30, 22.45 circa, anche perché non credo che oggi ci sia 25 o'clock, in caso contrario finiremo puntualmente alle 22.30. 0649 1750 è il contatto telefonico, www.ondarossa.info, anche per ascoltarci attraverso lo streaming già abbastanza frequentato orora. Domani ricordiamo sul sito della radio e sulla pagina Facebook prove tecniche di trasmissione / disorder uscirà la registrazione, la playlist di questa puntata odierna. Ricordo l'urgenza della sottoscrizione, quindi conto corrente postale 6180401, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via Volsci 56 00185, Roma. Cominciamo con il salutare il medico della peste, Marco qui a Roma, Lucia Cagliazzi in arte Lupsi, ottima musicista sperimentale in quel di Udine, Antonio Zoviet come omicidio da Firenze. Al nord, verso la Lombardia, Isa e Tual, Nicolocci dalla Sardegna, Raffaele Pezzella in quel di Napoli. Jean-Claude Berthaud, un grosso abbraccio a lui dalla Val d'Aosta. Ci ha chiamato con molto trasporto e con me, infondendomi di molta contentezza, il buon fantasma che abbracciamo caldamente e ricambiamo. Un saluto anche a Govind Singh Kurana da Ferrara. E dunque andiamo ad iniziare proprio con Raffaele Pezzella. Dall'inizio di questo nuovo ciclo stiamo un po' analizzando questo Drone Islands, un album che, come si può anche intuire dal titolo, mette al centro degli ascolti e dell'attenzione di Pezzella e quindi di conseguenza anche il nostro, il concetto di drone, di musica rarefatta. E quindi una serie di artisti anche abbastanza conosciuti vanno un po' a comporre questa compilation. Thank you. E quindi questa sera ci ascoltiamo Abi Ashtoret con Elemental One e Diamond con Hawa. Soprattutto il primo con un approccio più ritualistico, sacrale, il secondo invece più evanescente. Ce l'andiamo ad ascoltare. sorta di vero e proprio sciamano Ashoret con Peter Verwimpe, artista proveniente dal Belgio. Di queste informazioni ringraziamo ovviamente Raffaele Pezzella. Sciamano meditativo, ipnotico, in odore di trance, un certo tipo di trance. Il prossimo artista sta per partire, si chiama Daimon, e contiamo anche qui sull'apporto di Raffaele. Daimon, questa è Awash, sempre da John Island, Onda Rossa 87 e 9, prove tecniche di trasmissione. Healing, talking. I'll tell you about being. Green is a shadow of something real. Inizio dunque molto molto interessante con questa compilation ideata da Raffaele Pezzella attraverso la sua 8 Tower Records. Ricordiamo, è entità parallela alla, diciamo, tra virgolette, più nota Nesplay Sounds Group, nata anche prima, se non sbaglio. E l'8 Tower Records va a curare gli aspetti più rarefatti, più evanescenti, più astratti di tanta musica sperimentale. Questo Drone Island Land Rising ospita tanti artisti interessanti e questa sera due grossi calibri che rispondono al nome, che rispondevano al nome di Ash Toret e Diamond, quest'ultimo progetto italiano. Con Simon Ballestrazzi, Paolo Monti, ecco qua, e Nicola Quiriconi. Dunque, Simon Ballestrazzi, Nicola Quiriconi e Paolo Monti, che salutiamo. E di Diamond a questo punto mi andrò anche a reperire qualcosa, data la valenza di questo progetto, che vale veramente pena di conoscere meglio. Un saluto anche, non mi ricordo se già l'ho fatto, ma lo rifacciamo, male non fa, ad Antonio Zoviet a Firenze, Enrico Cerrato, Petrolio, eccolo qui, ascolto anche lui, lo salutiamo. Sta andando tanto Stefan Claverdal, che ascolteremo da capo e con più concentrazione la prossima settimana. Andiamo avanti con un altro artista italiano, Federico De Carolo in Arte Deca, una carriera costellata da musica assai diversa, tra diverse tendenze, una musica concepita in maniera diversa in tanti modi da Deca. Dal synth pop all'industrial, alla dark ambient, e noi chiaramente siamo andati un po' a privilegiare il terreno più sperimentale di questo artista ligure proveniente da Savona. E quindi questa sera due tracce dal nome Entrance e Enigma. Eccolo qua ancora Deca con questa intro pianistica così notturna. Ecco qua Enigma. Federico De Caroli in arte Deca, anche valente compositore di colonne sonore televisive, molti anni di attività sulle sue spalle. Un concerto che ho visto qualche tempo fa qui a Roma, dove si è esibito nella sua dimensione più, diciamo, da claps, quindi più synth pop, ma veramente fatto bene, devo dire, in alternanza a questi suoni meravigliosi drone, questi tappeti evocativi, queste frequenze misteriose che emanano mistero in tutte le note di Deca, da Savona, ricordo. Come al solito abbiamo molto materiale italiano qui a Prove Tecniche di trasmissione, ma per un attimo invece facciamo un bel saltone, ce ne andiamo in Giappone e lo facciamo con Gutenberg, A Necessary Bronze, questo terzo lavoro che esce per Ant Zen, etichetta da noi apprezzatissima, come i più affezionati di questi programmi sanno, sia qua sia in Disorder, il lunedì alle 21:30. Questa sera ci ascoltiamo Guy's Kitchen e Inspired from Die. We'll be right back. sorta di elettro impazzita, questi beat così acuminati, così spezzati, appartenenti a Gutenberg, progetto giapponese, Unnecessary Bronze è il titolo di questo terzo lavoro. Lui si chiama Shoji Sakurai, tre lavori, il terzo sancisce anche l'ingresso trionfale, aggiungo io, all'Anzen, etichetta storica della Germania. Allora, torniamo in Italia, lo facciamo con New Procession Order, che sono proprio qui di Roma, e abbiamo qui ritirato fuori Crucifigo, il secondo lavoro di qualche anno fa, esattamente del 2015. Ci ascoltiamo la seconda e abbastanza lunga traccia, quasi 8 minuti, dal nome Light in the Tunnel of Darkness. Anche qui un afflato, direi, abbastanza ritualistico, sacrale, cosa sovente in New Procession Order. Un estratto anche per questa serie da Crucifego per New Procession Order, si chiamava Light on the Tunnel Darkness, in gran parte con una sonorità quasi post rock, questo finale con le classiche campane che rimandano a tematiche religiose, ben insite nel processo New Procession Order, con Marcello Fraioli, ricordiamo, Alessandro Papa, Gloria Bazzocchi e anche Simon Ballestrazzi. Un album che con molto piacere